fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Torniamo in diretta, un'altra festa, un altro motivo per fare festa. Abbiamo fatto un come dire, esatto cambio di cromosomi, perché dopo tutto uno studio al femminile, nell'ultima intervista abbiamo uno studio tutto al maschile, in questo caso per... Ah, non l'ho vista, scusa. Oh, meno male. Meno male, meno male che hai salvato la situazione. Brava, brava, che hai salvato la situazione. E dicevo, siamo tutti qui per condividere insieme un momento di festa. Abbiamo qui il festeggiato. Vai, presentati al microfono così ti sentiamo. Buonasera a tutti, sono Fabio e questa sera compio 24 anni. Oh, 24 anni, quindi compleanno. Fabio, da dove vieni? Minerva, provincia di Verona. Verona, che anche questa sera è, come dire, molto molto presente nel nostro locale. Verona e provincia. Allora Fabio, chi c'è qui con te? Chi sono questi ragazzi? Sono i miei amici, sono gli amici di una vita e niente, li ho invitati perché insomma senza di loro la festa non è niente. È normale, è normale, assolutamente sì. Vedo anche i tre ragazzi con la camicia a fiori che sono, si sono vestiti uguali. Esatto. Ah, quattro, quattro, lui è bianco. Ahia, ahia, ah, ah, ricordino, ricordino, ricordino. Ricordino ci vuole sempre. Eh sì, eh sì. E invece la ragazza, anche lei è amica. Lei è l'amorosa del ragazzo con la maglietta a fiori e il codino. Ma quale dei, quali dei 65 che hanno la maglietta a fiori? Quello che è essere amato. Ah, col codino, quel codino c'è. Ok, ok. Questo codino. Ah, ok, quello, quello. Vedevi, non era ben visibile. Allora Fabio, cosa fai nella vita di bello? Lavoro, faccio il meccanico. Il meccanico. Quindi, insomma, ci sai fare con... È un grigolo. In che senso? No. Aggiusto i trattori. Il grigo è un'altra cosa. Faccio riparazioni di trattori. Ah, ok. Solo trattori, non macchine. Solo trattori. Solo trattori. È un, come dire, un lavoro che avevi già immaginato per la tua vita o ti è capitato? No, ho trovato questo. Cioè, allora, la domanda era proprio identica a un'altra. Cioè, eri uno che già da piccolino aveva a che fare con le marmite e tutte quelle cose. Esatto. Qua. Adesso, però. Mi piaceva sporcarmi le mani d'olio. D'olio, quindi. Quindi facevi il massaggiatore? Più o meno, col ferro, sì. Ah, ok, ferro. Massaggiatore di ferro. Massaggiatore di ferro, che è un buon, un buon lavoro, è un buon lavoro. Ok, ok. Quindi tutta blu, tutto da lavoro blu. Di ordinanza, no? Blu, verde, dipende. Vabbè, insomma, giornata. No. Quello è, quello è. Allora dai, vuoi dire qualcosa? Vuoi mandare un messaggio ai tuoi amici o a chi vuoi? No, li ringrazio perché insomma qua a divertirmi non è. Cioè, senza di loro non farei niente, insomma. Assolutamente d'accordo. E se fai a me di toccarmi il culo. Oh! Attenzione, che approfitta del. Ah, ok, ok, siete un pubblico pagato. Ok, siete compagnia pagata. Sì, se no non veniva nessuno. Giusto, giusto, la compagnia pagata, ci mancherebbe altro. Dicevo che purtroppo l'amico ha approfittato dello spazio piccolo per allungare le mani, però insomma, anche questo fa parte del gioco. Allora, allora, grazie mille ragazzi per essere stati con noi all'interno della nostra radio e vi lasciamo tornare a divertirvi per vivere ancora un po' la festa insieme. Auguri al nostro Fabio. Grazie mille, ciao.